Sì, sicuramente, senz'altro. E soprattutto proviamo a cantare, eh? Sì, possiamo farlo tutti, non certo. Ci sono persone non stonate. Non ci si deve tirare indietro. Tutti abbiamo le corde vocali, è uno strumento direi più comune del mondo. Noi sentiamo buona musica, sentiamo buone voci, diventiamo degustatori dei suoni, di quelli belli che entrano anche, come ci spiegava la dottoressa Bertelè, attraverso la nostra pelle, e cantiamo, canta che ti passa, no? Possiamo chiudere così la puntata di oggi ringraziando il dottor Enrico Brenna per essere stato con noi. Mi saluti il suo cane, dottor Brenna. Grazie. Grazie agli Alti e Bassi, ad Andrea Gambetti e Filippo Tuccimei, grazie a voi. Io vi aspetto come sempre domani, Carmelo Lauricelli regia la parte tecnica, Laura Vanossi e Miriam Lucchetti in redazione, a domani. Radio 24, la passione si sente.